la lingua, potenza per il bene e il male. Morte e vita sono in potere della lingua, quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. Proverbi 18 e 21. Poche cose dell'uomo hanno la capacità di influenzare la sua vita in ogni settore come la lingua. Infatti, secondo il modo in cui la usiamo, si decide della vita e della morte. Oltre al significato più ovvio che per morte e vita si intende l'esistenza terrena o la cessazione di essa, le parole morte e vita si riferiscono anche al bene e al male, al successo e l'insuccesso, a ciò che fa prosperare, e al suo contrario, il benessere e il malessere, l'armonia e la disarmonia. In definitiva, ognuno raccoglie ciò che semina con la lingua. Non occorrono molte parole per renderci conto che con la lingua si può fare tanto male come tanto bene. Eppure mi chiedo come mai si continua a rovinare la vita di tante persone con la maldicenza, il pettegolezzo, la malignità e la calunnia. Come mai si continua anche nelle chiese a spargere chiacchiere al punto che alcune si sono divise, per cattiveria, perché si vuole compiere del male? Non credo che le motivazioni siano sempre queste. La risposta a queste domande è molto più semplice, perché i credenti non sono convinti dallo Spirito Santo di peccato, non sono convinti che la loro lingua possa causare tanto male, non sono convinti che le loro parole possano avere il potere di distruggere una vita, una famiglia, una chiesa. Senza profonde convinzioni prodotte dalla parola di Dio, non agiamo di conseguenza. Per cercare di arginare questo male antico, esaminerò alla luce della Scrittura alcune ragioni per cui i credenti parlano in modo inopportuno. Le parole del calunniatore sono come bocconcini prelibati, che scendono fino nell'intimo delle viscere. Proverbi 18:8. A tutti piacciono le cose buone, e la medicina amara che rifiutiamo, ma davanti ai dolci, dobbiamo trattenerci. Ebbene, le parole del calunniatore sono come bocconcini prelibati. Nessuno riesce a rinunciarvi e a non assaggiarne. Mentre un discorso impegnativo e serio procura noia, pesantezza, un discorso diffamatorio ci attira, vogliamo sapere, conoscere. Se non avessimo per natura l'inclinazione e la curiosità verso ciò che è denigratorio, certe riviste diffamatorie non avrebbero successo. Certi credenti non avrebbero tanto spazio nella Chiesa, il peccato non avrebbe quell'ascendente che ha. Quando Eva vide ciò che era proibito non lo considerò orrendo, ma il frutto le apparve bello, desiderabile, buono. La lingua nessun uomo la può domare, è un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Giacomo 3:8. L'uomo è stato creato per dominare sul creato e sugli animali. In senso lato l'uomo è padrone della terra, perché da essa può ricavarne ciò che vuole, è padrone degli animali, perché li può domare. Eppure, nonostante possa esercitare il suo dominio in questi ambiti e disarmato di fronte a se stesso, non può comandare uno dei suoi più piccoli membri, la lingua. Se la parola di Dio afferma che la lingua nessuno la può domare, ciò significa che nessuno è in grado di tacere quando lo si dovrebbe fare. Se cice, è un peccato di cui tutti ci siamo macchiati, è proprio quello di aver detto cose che non dovevamo dire. Non resistiamo alla tentazione di dire quello che non si deve. Ma vi è un'ulteriore riflessione da fare che dovrebbe rimanere scolpita nella nostra mente perché, come vedremo, è di estrema gravità. Leggiamo l'affermazione di Giacomo 3:8 anche in altre traduzioni. La lingua è un male senza posa. Luzzi. È un male che non si può frenare. Nuova Diodati. È un male che non si può trattenere. Versione Diodati. È un malanno che non si può reprimere. Nardoni. È un male ribelle. Bibbia Cei. Tutte queste traduzioni portano alla seguente riflessione. I peccati della lingua si distinguono dagli altri peccati, perché non si circoscrivono, non si reprimono, non si possono trattenere. Una volta innescati, essi continuano la loro opera devastatrice spandendosi a macchia d'olio. E, come un fuoco, una volta acceso, continua la sua opera finché non rimane più nulla da bruciare. E, come una malattia contagiosa, infetta chiunque contatta. In definitiva, i peccati della lingua sono i più dannosi, i più devastanti che l'uomo possa commettere. Noi pensiamo che il peccato più grave sia l'adulterio, l'omicidio o il furto, ma questo è solo questione del nostro modo di pensare. Secondo la legge di Dio, se un uomo rubava per sfamarsi, veniva compreso e doveva restituire il mal tolto. Se qualcuno aveva relazioni sessuali con una prostituta, come Giuda, il figlio di Giacobbe, non sapendo che fosse sua nuora, e Sansone, non veniva lapidato, ma se un uomo malediva Dio, non c'era misericordia, doveva essere lapidato. Quando Anania e Saffira mentirono a Pietro, morirono all'istante. Forse l'esempio di quanto possa essere devastante la lingua è la persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che non ha commesso nessun peccato, è stato giudicato e condannato a morte sulla base di un'accusa ingiusta. La lingua è un male senza posa, cioè inarrestabile. Si racconta di un uomo, famoso per le sue maldicenze, che dal suo letto di malattia volle confessare i suoi peccati ad un fratello. Quando ebbe finito, espresse il desiderio di rimediare i torti fatti. Il fratello allora gli disse di prendere un cuscino, di sventrarlo e versare il contenuto fuori dalla finestra. In questo modo le piume in esso contenute in poco tempo furono sparse ovunque dal vento. Poi il fratello gli disse di raccogliere tutte le piume, ma il malato rispose che questo era impossibile. «Ebbene», rispose il fratello, «anche le parole che hai seminato non si possono più raccogliere. La tua maldicenza è stata seminata nella ruota della vita e non saprai mai quanto male potrà ancora produrre. Se noi conoscessimo il male che facciamo quando parliamo sconsideratamente, quando per invidia critichiamo, quando ci sfoghiamo con un animo inasprito, quando spargiamo calunnie e maldicenze, avremmo paura di noi stessi e diremmo con il salmista: metterò un freno alla mia bocca. Non dobbiamo sottovalutare la gravità del proverbio. Un fratello offeso è più inespugnabile di una fortezza, e le liti tra fratelli sono come le sbarre di un castello, Proverbi 18 e 19. A volte anche il tempo è incapace di cancellare un'offesa fatta verbalmente. Con la lingua si può rovinare la carriera di una persona. Con la lingua si possono dividere gli amici migliori. Con la lingua si può creare la discordia fra marito e moglie. Con la lingua si può disturbare una riunione. Con la lingua si può ferire più profondamente che con le percosse. Con la lingua si può rovinare la reputazione di una persona per sempre. È sufficiente insinuare un piccolo dubbio, una radice velenosa di sospetto per distruggere la stima che qualcuno si è creato con fatica. Il peccato della lingua ha una particolarità. Non occorre essere presenti quando il male produce i suoi frutti deleteri. Tu semini discordia, dubbi, e poi continui per la tua strada. Intanto come un seme. Il male che hai seminato germoglia, e quando ormai il danno si verifica tu non sei né indagato né sospettato, perché in quel momento sarai lontano. Come ancora oggi l'umanità subisce le conseguenze delle sinuose parole di Satana rivolte ad Eva, così le tue parole seminate oggi potranno produrre tanto male alle future generazioni. Ma è altresì vero che con la lingua si può incoraggiare, si può consolare, si può benedire, si può dare vita. Credo che tutti, a distanza di anni, ricordiamo con piacere quanto bene ci abbia fatto un intervento saggio e comprensivo. Un giorno qualcuno chiese a mia moglie, donna equilibrata e riflessiva, come mai avesse sposato me che sono impetuoso e disordinato. La sua risposta la porto ancora nel cuore e ha dato un sapore nuovo al nostro matrimonio. L'ho sposato perché ho visto che amava il Signore. Se anche ciò non fosse stato vero, credo che da quel momento avrei fatto di tutto per non deludere mia moglie. Morte e vita sono dunque in potere della lingua. E proprio per questo principio Dio vuole che coloro che credono in Lui lo confessino verbalmente. Forse non tutti hanno compreso questo aspetto e desidero chiarirlo proprio perché vi è in gioco la vita eterna. Molte persone pensano che basti credere in Dio per essere salvati, Essi affermano che Dio conosce i nostri cuori e quindi non è necessario esprimersi al riguardo. Ma le cose non stanno così. Leggiamo in Matteo 10, 32-33. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. È vero che Gesù conosce i nostri cuori, ma al momento del giudizio egli considererà non solo il nostro cuore, ma anche ciò che avremo detto. Leggiamo in Romani 10, 8-10. Questa è la parola della fede che noi annunziamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice, chiunque crede in Lui non sarà deluso. Il messaggio dei primi apostoli era che per essere salvati occorrono due elementi, il cuore, cioè la volontà, e la confessione verbale. Proclamare Gesù come nostro Signore non è solo una confessione, ma anche un'identificazione pubblica di appartenere a Lui e alla famiglia di Dio. Non è sufficiente un cammino retto, perché anche un moralista può avere un comportamento simile a quello del cristiano. Una condotta ineccepibile può al massimo testimoniare la moralità della persona, la confessione verbale rivela in chi si è creduto. Occorre la testimonianza verbale per identificarsi con Gesù e i figli di Dio. Secondo le profezie verrà il tempo nel quale coloro che appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo dovranno uscire dall'anonimato per proclamare con coraggio e a costo della propria vita di aver creduto non in un movimento religioso ma in Gesù Cristo quale unico Signore, Salvatore e Padrone. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Luca 18, 8. Una simile domanda responsabilizza ogni cristiano ad essere un testimone sia con una condotta irreprensibile sia verbalmente perché verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Ma, per prurito di udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. 2 Timoteo 4, 3. Sta scritto che la morte e la vita dipendono da quello che diciamo, che in base alle nostre parole saremo giustificati o condannati. Vuoi tu amare la vita e vedere buoni giorni? Trattieni la tua bocca dal male e le tue labbra dal parlare con inganno. 1 Pietro 3, 10. Vuoi tu essere giustificato davanti a Dio? Se non hai mai confessato la tua fede in Gesù pubblicamente, ti invito a farlo subito. Se lo hai già confessato, ti esorto a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Giacomo 1, 3. Maggio 1994, Ellero.